E allora il nostro giro di collegamenti, dicevamo, lo iniziamo dalla Sapienza. Noi siamo al telefono con Luciano, ciao. Ciao, ciao a tutti e tutte. Allora, innanzitutto la cosa che immagino molti vorranno sapere, se hai notizie sui fermi che ieri hanno effettuato le forze dell'ordine a danno dei manifestanti, Luciano. Sì, allora, qui a Roma il fermo è stato uno ed è un ragazzo minorenne, quindi che è stato immediatamente rilasciato. E per quanto riguarda invece il resto d'Italia, ci sono andati giù parecchio più pesante. A Bologna abbiamo 4 feriti piuttosto gravi tra gli studenti. Tra l'altro quello che è successo a Bologna è paradossale, perché la polizia ha deciso, per impedire agli studenti di bloccare la stazione, ha deciso di chiudere la stazione per 4 ore con i passeggeri dentro. Si sono stati sequestrati e fuori si compieva una mattanza. Quindi a Roma hanno cercato di apparire un po' più dolci, anche se poi ci hanno sparati lacrimogeni su Via del Corso, quindi dolci fino a un certo punto. Ad altre parti, dove magari c'erano riflettori un po' meno puntati, si sono un po' sfogati. Va bene, senti, passando invece alle discussioni che immaginiamo stanno già animando le assemblee all'interno degli Atenei romani, ecco, un primo bilancio sulla giornata di ieri credo che si possa fare, no? Sì, assolutamente. Noi, a differenza della settimana scorsa, ieri ci aspettavamo una partecipazione elevata, ma non così elevata. E devo dire che, oltre alla partecipazione, l'elemento straordinario è stata la radicalità. Non solo nella determinazione del voler arrivare a Montecitorio provandoci 2 volte, ma anche nel non volersi fermare, nell'arrivare in corteo su Muro Torto e voler occupare i binari di Termini. Una giornata che è durata ore e ore sotto l'acqua, è un corteo che è rimasto grande e determinato per tutto il corso della giornata, e questa è stata una cosa straordinaria. Ovviamente è arrivato il voto alla Camera, questa è una cosa che noi nelle assemblee ci dicevamo, ce l'aspettavamo, non avevamo nessuna fiducia né ci siamo mai fidati degli intrighi di palazzo fra Berlusconi, Vini e Casini e quant'altro, però abbiamo intenzione di rilanciare, sul 9, che sarà il passaggio al Senato, a patto che non slitti ancora, e per quella giornata ci immaginiamo una mobilitazione forte e determinata come quella di ieri, se non di più. Un altro elemento, sì, è quello che appunto non dipendeva purtroppo solo da noi l'approvazione alla Camera, ma sicuramente da noi è dipeso il creare un clima per cui questo governo non è più impermeabile a quello che succede nella società, e soprattutto la caduta imminente del governo non è più solo determinata da scandali e vizi e vizietti vari, ma è determinata anche da un consenso sociale che si è sgretolato intorno a Berlusconi, che per esempio 2 anni fa invece era molto più forte, e che adesso, vuoi per quello che stiamo facendo noi, che è il conflitto del momento, ma quello che è successo in Campania per i rifiuti, quello che è successo con i migranti, insomma un consenso sociale, delle contraddizioni che si sono aperte, un consenso sociale che non c'è più, che favorisce, spero, la rinascita di una fase conflittuale in questo paese. Ma sì, credo che le tue riflessioni siano molto sensate. Anch'io immagino, insomma, che quantunque le divisioni interne alla maggioranza, che sono chiaramente quelle che fanno da sfondo, insomma, a tutta questa crisi di governo, ma l'impressione è proprio che anche il fatto che ieri ad esempio la maggioranza sia andata sotto su un paio di emendamenti, certamente al voto i deputati in un modo o nell'altro sentono il fiato sul collo della protesta, ne sono in un certo senso condizionati. Non scordiamoci che la campagna elettorale già si è aperta, e quando si è in queste fasi di campagna elettorale, anche diciamo da parte loro sperare nell'acquisto di qualche simpatia in più nel settore degli studenti può tornare utile. Sicuramente queste simpatie non gli torneranno utili se continuano in questo modo, ma sono calcoli che evidentemente ogni deputato si farà, insomma. Volevo chiederti, Luciano, appunto, oltre a le varie scadenze che sono previste per i giorni prossimi, anche quali sono le proposte, perché dalla controparte insomma viene fuori proprio questo tipo di accusa, no, nei vostri confronti, il fatto che non c'è diciamo una parte propositiva nella protesta, quando invece almeno a me risulta che questo non sia vero, no? No, non è assolutamente vero, ma non ci stupiamo di questo, perché che non veniamo ascoltati, che sembriamo sempre degli esseri strani che vivono su un altro mondo, è la normalità. In realtà noi viviamo la realtà ogni giorno. Se qualche politico si affacciasse un po' di più e vivesse un po' di più la realtà che lo circonda, oltre a venire sui tetti quando c'è appunto da iniziare la campagna elettorale, se ne accorgerebbe anche una classe politica miope come la nostra. Dentro le facoltà vive costantemente un livello di proposte e di analisi. Le assemblee non esistono solo 2 mesi l'anno, ma i collettivi, le organizzazioni studentesche lavorano tutto l'anno. E fra queste proposte c'è intanto una critica totale alla formazione che riceviamo, e l'idea anche di una formazione diversa, più qualificata, meno nozionistica, interdisciplinare. La facciamo vivere organizzando controcorsi, cerchiamo di proporre un'idea alternativa di didattica, un'idea alternativa di gestione dell'università, quella da cui siamo totalmente esclusi. Quando ci ribelliamo contro i privati all'università non è una questione ideologica, oddio, è anche una questione ideologica, ma ha i suoi fondamenti pratici. Abbiamo visto le privatizzazioni come elemento di smantellamento reale dei diritti, ma basta vedere quello che è successo nel mondo dei trasporti, dei servizi idrici, dei servizi elettrici. La campagna dell'acqua ne è la manifestazione più evidente. Quello contro cui lottiamo non è quindi soltanto un provvedimento, non è semplicemente una questione di soldi, che è pure un elemento fondamentale, ma è una questione veramente di critica totale alle ultime riforme. E su questo ritorno su quello che ci dicevamo prima riguardo ai politici. Noi come collettivi abbiamo pure fatto uscire dei comunicati, abbiamo provato a ribadirlo, perché su questa cosa ovviamente la maggioranza l'ha cercata di cavalcare accusandoci di essere strumentalizzati. I politici che salgono sui tetti dovrebbero spiegare com'è che adesso salgono sui tetti, mentre quando stanno al governo, Bersani, Vendola, al governo ci sono stati, hanno fatto le riforme che hanno fatto. Il 3+2 non l'ha fatto il centrodestra, l'ha fatto il centrosinistra. I crediti formativi universitari ci derivano da quello scandalo di riforma che ha fatto Berlinguer. La dequalificazione universitaria è un processo trasversale a destra e sinistra, e quindi quello che critichiamo è appunto uno cercare di cavalcare la protesta studentesca per cercare di farsi notare in vista di elezioni imminenti. Va benissimo, hai fatto bene d'altra parte a sottolineare anche questa continuità di indirizzo che certamente è evidente, è visibile tra insomma i provvedimenti emanati dai governi precedenti, anche di diverso colore, e questo DDL Gelmini. Luciano, senti, noi andiamo di corsa, vogliamo collegarci anche con gli altri atenei, per cui ti salutiamo, ok? D'accordo, ciao, grazie, ciao a tutti e a tutti.